trascini la nostra vita senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo già vissuto senza fine. Tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei. Cielo, tu per me sei tutto quanto io voglio avere senza fine. Tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto mai nelle tue mani. Viva, viva, viva.